Non c'è un secondo che non ti penso. Ma ogni volta che ti parlo, ti telefono, ti scrivo, non ti importa ma mi giudichi per quel che dico. Fino a qualche settimana fa dico, le giornate a pensare, ma adesso che gli dico? Telefonare, ho sempre il dubbio di disturbare. E allora ferma, ad aspettare un tuo segnale, ad aspettare un tuo segnale, ad aspettare un tuo segnale. Non c'è un secondo che non ti penso, ma ogni volta penso a cosa stai facendo e non lo so, a quando ti vedrò e non lo so, se mi stai pensando e ancora non lo so, cosa pensi di me, indovina? Non lo so. Se ti scrivo che sto male, non è vero ma reale. Sui banchi mi manchi, mi manca il tuo segnale. Ore ed ore, io essere inferiore. Ore ed ore, tu sì che sei migliore. Io da te, tutto da imparare. Io per te, non ho niente da dare. Io con te, tutto da rifare. Io e te, ma io che ci sto a fare? Non c'è un secondo che non ti penso, ma ogni volta penso a cosa stai facendo. Quando ti vedrò, non lo so, se mi stai pensando, e ancora non lo so, cosa pensi di me, indovina, non lo so. Differenza di età sarà la tua risposta, se ci sarà un'altra opportunità, sarà, sarà quel che sarà. Non c'è un secondo che non ti penso, ma ogni volta penso a cosa stai facendo e non lo so, a quando ti vedrò e non lo so, se mi stai pensando e ancora non lo so, cosa pensi di me, non lo so. Cosa stai facendo e non lo so, quando ti vedrò e non lo so, se mi stai pensando e ancora non lo so, cosa pensi di me, non lo so, chi c'ha ragione e chi no, non lo so, cos'altro dire, non lo so, la tua risposta io